Allora, abbiamo circa un'oretta per confrontarci ancora con Laura, partendo dalla sua comunicazione, dalla sua relazione, ma comunque lei credo che sia disponibile a rispondere a qualsiasi tipo di domande e di perplessità. Sono abituata a parlare, ecco, però parto dalla realtà. Partiamo. La mia esperienza di chiesa avviene soprattutto grazie a una comunità che si chiama di Via Germanasca, Idea, la conosci un po', perché è abbastanza sconosciuta in Torino, fa parte di alcune... Non lo era, sì. Una volta era molto conosciuta. Sì, ma adesso resistiamo, nonostante tutto, perché avevamo addirittura due preti, adesso sono morti tutti e due, tiriamo avanti come comunità. Eccetera, solo da un anno, siamo orfani, quindi insomma è tutto in divenire. Allora, è una comunità che 50 anni di condivisione, di tante cose, tra cui l'attenzione alla parola e alle parole, soprattutto liturgiche. E quindi, niente, tra queste, a un certo punto, riflettendo, ragionandoci, eccetera, abbiamo pensato bene di non dire più parole di Dio al termine delle letture, perché penso di aver capito così, perché poi ognuno ha la sua, come dire, ricezione della... così è sostanzialmente una parola scritta da uomini, prima orale, poi scritta, eccetera, e quindi non va presa come una illuminazione, come una dettatura da parte di Dio, ok? Devo dire la verità, io ho sempre fatto un po' di fatica, è solo una questione di questi ultimi 2-3 anni, nei confronti di questa scelta, perché non lo so, ho l'impressione che ci sia qualcosa di più di una semplice parola umana. Tra l'altro le cose che hai detto su questa Bibbia, dove trovi tutta la storia di uomini e donne, di società, io da un pezzo che la sento veramente, no? Addirittura quando ho dei problemi vado a leggere, ma cosa è già successo? No? Cioè, proprio anche a livello letterario, cioè, è proprio splendido, no? Trovo questo libro, questa biblioteca di testi. E, quindi, perché a me è rimasto sempre in cuore, e qui cito Georgis, che ho avuto la fortuna di averlo al matrimonio, sposato me e mio marito, e, che a proposito, avevamo scelto la lettura dei discepoli di Emmaus, no? Dopo la resurrezione, e metteva la sottolineatura forte su questo ci arde il cuore in petto, no? E, lì è il nucleo della... Allora dico, ma questo non è solo così un racconto umano. Quindi a me non era così congeniale, però oggi mi è sembrato, mi hai un po' aperto dei ragionamenti su questo. Cosa ne pensi? Sì, non è che io penso, cioè qui io veramente mi sento di dire che penso secondo la Chiesa, perché... quello che dico su questo non è un mio pensiero, no? Cioè è il pensiero della Chiesa, in cui mi riconosco totalmente, e che la parola di Dio è parola di Dio scritta da uomini. Giovanni Paolo II nell'introdurre un documento molto importante della Pontificia Commissione Biblica della metà degli anni 90, che si titolava L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Il documento è della Pontificia Commissione Biblica. Giovanni Paolo II, che era Papa in quegli anni, aveva fatto questa introduzione, no? E riprendendo, no, un po' il pensiero della Chiesa sulla scrittura, a un certo punto ha usato un'espressione che a me piace tantissimo, e che dice la verità della parola, effettivamente, quello che la Chiesa pensa della parola, che è mistero di unione dell'umano e del divino. Unione. Mistero di unione, sì, in analogia con la persona di Gesù. Cioè, in realtà la parola di Dio, no, ci insegnano, cioè basta fare un corso di introduzione alla teologia, cioè primo proprio ABC, la parola di Dio non è questa di per sé. La Bibbia non è parola di Dio. La Bibbia contiene la parola di Dio, ma la parola di Dio è Gesù Cristo. Cioè la parola è la persona di Gesù. E qui il verbo si è fatto carne, no? Cioè la parola è una persona, quindi e la persona è molto più di un libro. E la persona è qualcosa di vivo, no? E la persona di Gesù è umana e divina. Quello che noi crediamo di Gesù è che in una persona ci sono due nature, tutta l'umanità, perché il verbo si è fatto carne, e quindi un'umanità reale, completa, insieme al verbo però, cioè con tutta la divinità, cioè la straordinarietà della persona di Gesù è aver unito in una persona sola due nature. Allora, da sempre la Chiesa, pensando alla parola di Dio, la pensa in analogia alla persona di Gesù. Cioè, così come in Gesù ci sono tutto l'uomo e tutto Dio, qui dentro, no? Dove la parola ha trovato testo, si dice, si è attestata, cioè entra nel testo in modo misterioso. In questo modo misterioso è una collaborazione, no, tra l'uomo e Dio che ispira. Per cui questa è parola scritta da uomini, in alcuni casi abbiamo nome e cognome, cioè Geremia, Isaia, Paolo, Marco, no? Cioè in alcuni casi sappiamo, in altri casi non sappiamo chi è, no? E va bene, però comunque sempre qualcuno che ha preso una penna a un certo punto ha scritto, quindi è parola, no? Ma ispirata. Quindi quello che quella persona ha scritto, l'ha scritto in una forma misteriosa di collaborazione con il Signore. Ma allora è da dire nella liturgia parole di Dio? È da dire. Però bisogna capire che cosa vuol dire parola di Dio. Giustamente prima si è usata la parola dettatura. Non è mai la Chiesa ha pensato della Bibbia che la Bibbia sia una dettatura. No, questa è la teologia dell'ispirazione. La parola di Dio è ispirata, vuol dire che è il frutto di un lavoro a quattro mani, cioè le mani della della persona materialmente che ha scritto e lo Spirito Santo. Ispirazione contiene dentro la parola Spirito, è il lavoro dello Spirito che ha agito. Boh, poi c'è tutta una teologia, se non abbiamo ancora finito di indagare come è successo che Marco, che scrive il Vangelo, abbia interagito con lo Spirito, no? Si pensa che sia un sostegno delle facoltà umane, che però sono umane, intelletto, volontà, capacità di capire, no? Tutte queste cose, quindi è Dio che sostiene quello sguardo, no? Quella cosa. Però, ecco, la Chiesa dice questo in modo tale che chi ha scritto è in tutto e per tutto un vero autore. Un vero autore in un libro che scrive mette la sua visione delle cose, la sua intenzione, dà una struttura, no? Cioè mette se stesso, mette se stesso anche solo perché se parla ebraico scrive ebraico, se parla greco scrive greco, cioè, quindi lì si vede, no? È un vero autore totale, no? Che è il motivo per cui su quattro Vangeli che abbiamo quattro cristologie. No? Ogni Vangelo dipinge un tratto del volto di Gesù, no? In Luca è il misericordioso, in Marco il figlio di Dio, in Giovanni è quello che dà lo Spirito, tante cose, tra cui quello che dà lo Spirito. Cioè è come se ognuno avesse la sua prospettiva, ha la sua cristologia, che non confligge, eh? Cioè, non è che quella cristologia di Marco e quella di Matteo non c'entra niente l'una con l'altra, però sono sottolineature diverse. Perché? No? O anche soltanto il fatto, come si vede bene, che Luca e Matteo, che condividono molte fonti in comune, no? Quando scrivono il Vangelo, conoscono insieme delle cose che Marco non conosceva, si capisce benissimo questo. Però poi si vede anche che le usano in modo totalmente diverso, no? Avevano le stesse fonti, ma le usano in modo diverso. La parabola della pecora smarrita c'è in Matteo e c'è in Luca, ma con sensi completamente diversi, in un caso sulla misericordia e un altro sull'ecclesiologia, no? Perché? Perché sono veri autori che usano tutta la loro testa, la loro intelligenza, la loro visione delle cose, la loro comprensione della realtà. E lì si vede dunque che la parola è parola che passa attraverso e fino in fondo l'umanità, che viene totalmente rispettata, no? Cioè non è una dettatura, vuol dire che Dio rispetta in tutto e per tutto l'umanità dell'autore che scrive, non lo usa solo come uno strumento, che è quello che l'Islam pensa del Corano. Anche l'Islam ha una sua teologia dell'ispirazione, ma è una teologia della dettatura, no? Il Corano dettato tutto in una notte dall'arcangelo Gabriele a Maometto. Poi lo sanno bene anche loro che non è possibile sta cosa, no? Però non si può dire. Ma anche per noi non si poteva dire, per fortuna poi adesso siamo un po' andati avanti e anche non è che ce la dobbiamo tanto tirare anche come Chiesa Cattolica, perché cioè abbiamo 500 anni di ritardo sulla Chiesa Protestante, no? Su questo, quindi non è che dobbiamo fare quelli che adesso guardano il Corano con la puzza sotto la... Però per dire, abbiamo una teologia diversa. Allora, è ispirata la Bibbia, che vuol dire mistero di unione dell'umano e del divino. Sono Dio e l'uomo che insieme e questo esattamente come nella persona di Gesù, come Gesù, nel pieno rispetto del fatto che chi scrive, cioè che l'uomo è uomo e resta tale, per cui mette se stesso, per cui si scrive nel IX secolo avanti Cristo, le cose più antiche dell'Antico Testamento sono attorno all'anno 1000, no? Si scrive XI, è chiaro che lui vive in quel tempo lì. E quindi, no? Cioè, quello che capisce delle cose passa attraverso la realtà in cui vive, che si sedimenta nella pagina, così come la sua lingua, a volte addirittura così come la sua esperienza personale. Pensate al libro del profeta Osea, che fa tutta una teologia dell'alleanza a partire dal fatto di essere stato pesantemente cornificato da sua moglie. E cioè, è un uomo tradito. E tradito e tradito ancora, perché è andato a sposarsi una prostituta sacra cananea, capisci che ecco. E però a partire da questa sua esperienza legge, no? Che cosa è il patto, cioè il modo in cui il Signore vive la relazione con noi. Però ci mette dentro tutta la sua vita, le sue emozioni, la sua sofferenza, suo fallimento, per dire tutto l'uomo dentro all'umanità pienamente rispettata, mai forzata, no? Mai forzata a dire proprio quello, no? No, quello non lo scrive, no. Cioè, e entra in gioco lo spirito. E nella Bibbia ci sono queste due cose, per cui se questo è vero, allora la Bibbia è ispirata, è parola di Dio e parola umana insieme, però quindi va interpretata vuol dire che non può essere letta semplicemente leggo, zac, capisco. Se così fosse sarebbe non solo zac, capisco, zac, faccio. Se così fosse sarebbe dettatura, perché l'Islam vuol dire sottomissione, no? Perché se il Corano è dettato, allora ogni parola, capito che se quello è dettato da Dio, anche le virgole sono parola di Dio. Allora lì non sposti niente, lì non interpreti, lì esegui. Batisla vuol dire sottomissione, tu ti puoi solo sottomettere a una roba del genere, perché l'idea è che è chiarissimo, cioè lì c'è quello che Dio vuole dire e basta. Per noi non è così, lì c'è la parola di Dio impastata di parole umane. Allora va interpretata, quando la leggo, interpretarlo cosa vuol dire? Boh, ma sta roba è scritta nel V secolo, nel X o nel I dopo Cristo? Perché fa differenza, no? Il contesto. La scritta chi? Cosa voleva dire? La lingua, no? Cioè ci separano da questi libri talmente tanti secoli che li dobbiamo raggiungere. Mi spiego? Se fosse solo parola di Dio, noi non dovremmo fare questo lavoro. E invece, per fortuna, è anche parola umana, per cui vuol dire che bisogna andarci non con l'ingenuità di chi pensa che sia un prontuario, no, medico, quindi c'ho mal di pancia, cosa prendo? Il Buscopan, che ne so, no? Cioè, vivo questo, cosa faccio? Non è così. Cioè, richiede di entrare dentro, richiede di conoscere l'autore, qual è la sua idea. Leggo Matteo, un po' lo devo conoscere, perché scrive questa cosa e la scrive diversa da Marco? Ma magari uno perché scrive in Siria, l'altro perché scrive a Roma. E quindi è chiaro che a Roma certe cose le dici in un modo, in Siria hai un altro uditorio, per esempio, questa è l'interpretazione. Allora, quella scelta di dire non dicevo più che parlare di Dio, secondo me è una scelta che si può comprendere come reazione ad un'idea falsa però della parola, no? Che sia zac. E siccome è così, non abbiamo... No, no. Se fosse così, noi non abbiamo niente da fare, se non obbedire. Allora, quella reazione ha tutto il suo senso, secondo me, perché giustamente un dire no a un'idea di parola che non è la parola. Nel momento in cui si recupera che cosa veramente è la parola di Dio, intanto è Gesù Cristo. Nel momento in cui si attesta impastandosi di parola umana, quindi la devo interpretare. Allora, se capisco bene questo, posso anche dire di nuovo parola di Dio. Però, mentre dico parola di Dio, devo tenere insieme mistero di unione dell'umano e del divino. Quindi qui c'è dentro tutto Dio, ma anche tutto l'uomo. Per cui, che si fa? E lì dovete vedere, secondo me, si tratta di vedere, ma che cosa pensiamo della parola? Perché se stiamo pensando che la parola è dettatura, allora non lo diciamo più parola di Dio. Ed è un passaggio da assumere, cioè non è da dire è sbagliato, è giusto. È come Giobbe che se la piglia con un Dio e dice no, no, no, no, e che dice no, in fondo è una certa idea di Dio. E quando poi Dio parla con Giobbe, dice Giobbe, hai ragione. Cioè, agli amici che dicevano no, non devi parlare così di Dio. E poi, meglio, Dio parla agli amici di Giobbe e dice oh, guardate che siete voi che siete sbagliando, lui ha ragione. Perché Giobbe tira giù un'idea falsa di Dio. Allora, se quello è un modo per tirare giù un'idea falsa della parola, ci sta, va benissimo. Però poi bisogna capire qual è il vero senso. No. Ho risposto? Sì, sì. Ok, forse un po' troppo. Cosa dice al posto di parola di Dio? Niente. Niente. Niente. E ognuno interpreta a suo modo questo niente. E quello è fatto. Bose dicono sì, sapienza di Dio, siano rese grazie a Dio al termine della seconda lettura. La prima lettura, sapienza di Dio. Scusa. No, sono interrotto. Se posso dire, c'è una breve considerazione. La parola ha in sé molti significati e va interpretata. Qual è il rapporto tra la libertà dell'interpretazione e il vincolo che invece abbiamo di interpretarla dentro certi limiti? Perché la scrittura tutti la sappiamo leggere, tutti vogliamo interpretarla, e la interpretiamo molte volte secondo i nostri schemi mentali, ma i protestanti la interpretano in un modo, gli ortodossi in un'altra, la nonna in un'altra. La Chiesa dice, voi dovete interpretarla secondo questi limiti e ci impone una certa interpretazione, ci impone con i dogmi. Esiste il problema della libertà di interpretazione. Oggi nel 2000 siamo più evoluti, viviamo in un flusso di evoluzionismo. Non possiamo essere fissi a una interpretazione che ormai è superata, dobbiamo adeguarci ai tempi. Quali sono i limiti di questa interpretazione libera? Certo, capito bene. Leggete l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa del 1995, di che vi dicevo, no? Allora, dove spiega bene E abbiamo anche delle idee sbagliate, secondo me, no? Cioè quello di pensare che la Chiesa ci abbia dato dei paletti per cui noi non siamo liberi di interpretare la scrittura, quando questi paletti, onestamente, poi sono anche tanto larghi, cioè purché, no? Purché l'interpretazione segua dei criteri che non sono dogmatici, però, sono esegetici. Cioè vuol dire, quello che la Chiesa chiede come criteri interpretativi sono, per esempio, banalmente, la conoscenza dell'autore, cioè il lavoro di serio di avvicinamento al testo, e quindi tenere per quelle cose che stavamo dicendo prima. Questo è quello che la Chiesa chiede rispetto all'interpretazione. Quindi, quando leggiamo i primi capitoli della Genesi e poi c'è creazione, no? E poi citato l'evoluzionismo, e poi dobbiamo mettere insieme, allora cioè interpretiamo non più come una volta? No, è che i criteri interpretativi obbligano per, come dire, rispetto dell'intelligenza delle persone a capire che quei capitoli lì mica sono storici, sono teologici. Altrimenti, ma vi pare che, cioè, chi ha scritto quella roba lì scrive il primo capitolo un racconto della creazione, il secondo capitolo un altro diverso racconto della creazione, in cui nel primo caso il mondo è stato creato in 7 giorni, nel secondo caso subito, cioè nel senso, nel primo caso l'uomo e la donna escono fuori insieme il 7° giorno, nel secondo prima l'uomo poi la donna. Allora, sono 2 racconti diversi della creazione. Se quelle pagine fossero storiche, uno dei due sarebbe sbagliato, per il principio di non contraddizione, cioè che tiene. Ma questo non è che chi ha scritto quelle cose fosse così rimbambito da non accorgersi di aver già messo una contraddizione appena giri pagina, appena iniziato il suo libro. No, è che aveva un'altra intenzione. Un'intenzione sapienziale, teologica, non storica. Niente di quei primi 11 capitoli è storico. Adamo ed Eva non sono esistiti. Infatti si chiamano in modo così generico. Adam vuol dire terra, Adama vuol dire terra, la creatura fatta di terra, Eva, Haya in ebraico vuol dire vivere, esistere, perché le è legata alla trasmissione della vita. Cioè sono nomi generici, dicono l'umanità al maschile e al femminile, sono i nomi di ogni uomo e di ogni donna. Allora l'interpretazione dice la Chiesa, la devi capire innanzitutto l'intenzione dell'autore. Se diciamo che sono storici, stiamo andando contro l'intenzione dell'autore, che non ha nessuna intenzione di scrivere un libro di storia. Infatti usa dettagli geografici sparati a caso, ma volutamente. Cioè lo fa capire in tutti i modi che sta raccontando una storia per dire non sono veri, sono verissimi, ma nel senso che portano alla luce la verità della vita umana. Mi spiego? Allora, qual è il criterio interpretativo? Capisci bene l'intenzione dell'autore. Questo è, non è dogmatico, è di uso dell'intelligenza. Allora dice quel documento lì, perché poi ci sono, fatto salvo questo, metodi interpretativi possono essere tanti descrive, c'è il metodo storico critico, c'è quello a seconda del contesto, no? Quindi a seconda che sei col poveri, a seconda che sei una donna, quello narratologico, ci sono, li descrive, ce ne sono tanti, li descrive tutti, alla fine dice quale di questi è il migliore? Dice, vanno bene tutti, dice quel documento della Pontificia Documenta. Ce n'è solo uno che non è accettabile dalla Chiesa. Sapete qual è? Il metodo fondamentalista. Quello che, dice quel documento, è da considerarsi un suicidio del pensiero. Il suicidio del pensiero è quello in cui non pensi. Perché? Perché non interpreti. Perché leggi che Dio ha fatto prima l'uomo, poi la donna, poi ha detto così, allora è proprio così. No, non stai interpretando, non ti stai chiedendo l'intenzione dell'autore, non stai entrando nel testo, non stai facendo un lavoro di comprensione delle cose. l'unica lettura che la Chiesa non accetta è quella fondamentalista. È quella di chi dice che non possiamo dire che il mondo è creato, che il mondo che c'è il darwinismo non va bene perché qua c'è scritto così. Quello è il fondamentalismo. E la Chiesa dice, è l'unica cosa che proprio no. Perché? Perché è un suicidio del pensiero. E perché non va bene il suicidio del pensiero? Perché a Dio non gli sta bene di scavalcarci in questo modo. Mi spiego? Ecco. Lo sapessero anche gli ultraconservatori, cattolici con la K, sta gente qua. Gli evangelici americani, sì, sì, ma quello è tutta un'ingenuità di una lettura che non accetta l'interpretazione. Io però, quando prima ti sentivo parlare della figura di Dio, cosa vuole da noi, cioè tu dicevi giustamente Dio non è quello che ti chiede questo, ti chiede quello, però mi veniva in mente che invece la Chiesa ci ha abbastanza inculcato quest'idea, e lo dicevo prima con le amiche, in qualche modo questa visione di un Dio che ti fa il golfino è meravigliosa, ma noi dobbiamo liberarci letteralmente da quest'idea che ci è stata inculcata fin da quando eravamo piccoli, quindi una visione di Dio che non corrisponde a quella biblica. Che Gesù ci trasmette, certo. Gesù ci trasmette un'idea di Dio che è quella che dovrebbe essere, però non sempre la Chiesa è stata fedele a questa interpretazione. Certo. Ma anche perché la Chiesa ha tolto la Bibbia dalle mani delle persone per 5 secoli. Quando Lutero ha preso in mano la Bibbia, l'ha messa in mano a tutti, la Controriforma l'ha tolta, per paura di quello che era venuto fuori, no? Allora noi abbiamo alle spalle una teologia, un magistero, una catechesi, una pastorale che non è stata biblica. E' ovvio che se poi una cosa non è biblica è qualcos'altro, però se è qualcos'altro non è Vangelo. Allora mi ricordo fa ridere sta roba, però fa anche piangere, cioè il racconto di è un biblista friulano, De Zan si chiama, lui racconta, adesso ha più di 70 anni, forse pure di più, non lo so, e lui racconta quando era giovane, ragazzo, lui in seminario, quindi anni un po' prima del concilio, e studiava, cioè era in seminario, studiava teologia eccetera, però la Bibbia, ma questo mi dicevano anche i miei nonni, non si poteva leggere. Sì, anche loro. Anche loro. Cioè, la Bibbia non la potevano leggere, anche lui che però invece gli piaceva, praticamente dice, l'unico posto dove non mi controllava in bagno, no? E quindi se la prendeva, si chiudeva dentro, il rettore del seminario, cioè sta cosa che lui stesse in bagno così tanto, gli dava pensiero, no? Perché che farà questo in bagno questo tempo? Scopre che va in bagno con la Bibbia, gli ha preso la Bibbia e l'ha scocciata tutta. Anche lui è andato a comprarsi un altro scotch, in modo che portava, toglieva sta roba e poi la rimetteva in modo da poter... Però capite cosa doveva fare un seminarista negli anni 60... per leggere la Bibbia? Perché il rettore ancora andava in bagno con un porno, magari andava bene, ma con la Bibbia no. Allora noi veniamo da sta roba qui, capite? È una forma di controllo, è una forma di controllo, mentre la parola, non bisogna avere paura della parola di Dio, la parola di Dio porta al Signore. Ma certo che se vogliamo controllare il rapporto delle persone col Signore, controllare le coscienze, invece di aiutarle semplicemente a mettersi davanti allo sguardo del Signore, Cioè, quello che la Chiesa, quello che noi dobbiamo fare è aiutare le persone a trovarsi faccia a faccia, occhi negli occhi, con Gesù Cristo. Dopo se la vedono loro. Ma se noi invece vogliamo controllare quello, e allora è chiaro che dobbiamo, no? Però. Come anche sottolineare di più l'importanza di certi dogmi che non appunto invitare le persone a riflettere sul Vangelo. Il dogma. Scusa Laura, sì. Ci sono altri due, credo. Sì. Enrico. E due Enrico. E due Enrico. E mia moglie mi ha detto no, col cavolo la faccio prima di dire. Perché questa storia della sottomissione è va bene, pensando ai ragazzi e ai giovani che magari ricevono un primo annuncio fuori di casa, non più in famiglia, secondo te che ruolo ha la parola? Cioè dove si inserisce nel primo annuncio? Quante età però? Adolescenti. Io gli adolescenti li lascerei stare, se posso dire. Cioè, la mia personale opinione è che l'adolescente non deve andarli con la parola di Dio, ma manco con un dogma, ma manco niente. L'adolescente lascia che passi questa adolescenza, cioè non è il momento di seminare, è il momento di aver seminato. Dovresti farlo prima. O comunque poi seminerai. Cioè è come voler piantare un quadro durante il terremoto. Cioè, se si muove tutto, non pianti il quadro, cerchi, cioè, speri che stia in piedi la casa. L'adolescenza è un terremoto, è un profondo sconvolgimento dell'identità anche di una persona. Non è il momento di andare lì con... Io li lascerei proprio stare gli adolescenti. Tanto bene agli adolescenti, cioè stare vicino, accompagnare umanamente, se lo chiedono. Ma non è il momento di rompergli le scatole con... Arriveranno... Perché sono gente seria i giovani, le domande dentro le hanno. Lasciamo che... Ecco, io questo onestamente penso. I due Enrico, dai, così poi risponde insieme. Poi scusate, si ha una grande paura, no? Di lasciare che i giovani sbarellino anche, no? Ma fa paura, ma il controllarli ha prodotto qualcosa? No. Allora, secondo me. Cioè, la nostra idea di catechesi è prendiamoli da piccoli così cosa? Così li hai stufati abbastanza che poi dopo finalmente se ne vanno. Ma tanto andrebbero lo stesso, cioè, mica... Non dobbiamo controllarli, non dobbiamo trattenerli, non dobbiamo... Scusate, so che fa un po' paura, però... Molto grazie Laura. Una domanda e poi se ci sta un'altra. Quella parola io sono è stata interpretata come definizione metafisica, aristotelica, e quindi quella comunicazione biblica di Dio a Mosè con la Samaritana. Ecco, è diventata questa immagine staccata di Dio irraggiungibile. Oggi c'è questo movimento del post-teismo che reagisce. Se puoi dirci qualcosa su questa alternativa che viene presentata, chiamata il post-teismo, immagini vaghe che si riducono, se non sbaglio, all'energia. Questa è la prima. La seconda che mi interessa di più. Dio parla, comunica se stesso, chiama, non esige. Io lo riassumerei guardando la situazione del mondo dell'umanità di oggi, in pericolo, molti osservano che Dio non abbandona, in qualche modo non abbandona l'umanità. Quindi forse il momento può essere paragonato al diluvio e poi a Noè, a rischio atomico, in una situazione come l'attuale di guerra nucleare, qualcuno riduce il pericolo, il timore, qualcuno lo accentua, può essere vista nella storia del diluvio di Noè un messaggio, una profezia, una speranza, però nello stesso tempo Dio parla, comunica, ma ci sono anche i tempi in cui Dio tace, ci sono i tempi in cui invochiamo una parola profetica, una luce, perché non le sentiamo. Nell'esperienza, nella storia, ci sono anche questi momenti. Sì, sono tante domande queste, però. Tutte leggerine. Sì. No, no, ma direi che, cioè, non so, che ti trovi alle 18 faccio la mia. Sì, sì. Allora, chiedo solo scusa, torno solo indietro un attimo alla domanda, perché mi è venuto solo, volevo aggiungere una roba alla faccenda dei giovani, la parola di Dio. Ricordo il mio primo padre spirituale, diceva, l'adolescente lascialo stare, però se vuole, quello che si può proporre è qualcosa di vero nella realtà, portalo a fare un'esperienza. Lui diceva anche sempre, portalo dai nonni. Cioè, sono le, perché comunque la parola si dà nella realtà anche, quindi non è che parla soltanto nel momento in cui mi metto lì, no? La parola e parola è fatto, quindi nell'incontro con l'altro, in un'esperienza di servizio, questo è parola anche, quindi che forse può essere anche una risposta all'ultima domanda, no? Di quello, ci sono momenti in cui Dio tace, manca profezia, è vero. Nella storia del popolo di Israele la profezia si è estinta attorno al V-IV secolo, e si diceva che i cieli erano chiusi, non c'era più profezia dopo Esdra. Quindi, guarda caso, sono stati i secoli dell'istituzionalizzazione, del sacerdozio che ha preso il sopravvento sul Tempio, sacerdozio politicizzato, tutta questa roba, comunque. E poi i cieli si sono riaperti, il Vangelo inizia con il Battista, il battesimo e i cieli che si aprono, finalmente dopo che si diceva che erano chiusi da dopo Esdra, quindi... Tempo senza profezia, certo. Tempo senza parola, no. Perché Dio parla in tanti modi. Appunto, anche la realtà è una parola. E quindi a volte mancano profeti. Banalmente, tradotto nel nostro mondo, vai a messa e non ti arriva niente, no? Oppure frequenti una comunità e ti accorgi che se hai qualcuno da portare non ce lo puoi portare, cioè che se una persona si affaccia tu dove la porti? In parrocchia? So mica, lì non c'è profezia il più delle volte lì, e allora non c'è l'eloquenza, no? Non c'è però la realtà resta sempre anche una parola. E nella realtà ci sono gli altri, c'è la vita che ti pulsa intorno, c'è tanto da ascoltare, ci sono le persone, ci sono gli incontri. Come questo. Incontri anche a volte sul tram, cioè o nella metro, no? Succedono delle cose. Dio parla veramente in tanti modi, cioè tra gli ebrei, no? Dopo aver parlato per tanto tempo in molti, ma ultimamente si è fatto parola per mezzo del figlio. Però, ok, nel Vangelo c'è la pienezza, ma mentre sei in coda alla posta possono succedere delle cose, anche quelle, però non so se... No? Ecco. Diluvio. Diluvio. Il diluvio come lettura dell'oggi? No? Come no? Come no? Certo, il rischio atomico, e il diluvio l'abbiamo detto, nasce da un eccesso di violenza, la violenza ce la mettiamo noi, ma poi la lettura della Laudato Si, del Papa, no? Cioè quello di dire, oh, attenzione, perché è nostra responsabilità cosa facciamo del giardino che dovremmo coltivare, custodire. Se lo schiacciamo e lo distruggiamo, quello si distrugge, certo. Che succederà? Il diluvio, sono salvate 8 persone. Che vuol dire? No, sì, il rischio atomico c'è, non è che è la fine dell'umanità, però restano 4 gatti. C'è questo rischio? Sì. Sì. C'è profezia? No. Nel senso, queste cose bisogna dirle, bisogna vedere, non ridicoleggiare o sbeffeggiare chi le dice, smascherare chi ragiona in questo modo. Sono i falsi profeti, no? C'è, guardate, nella storia dell'Antico Testamento c'è la profezia e c'è la falsa profezia. C'è Geremia che dice, oh, attenzione che se continuiamo così il Tempio viene distrutto, noi andiamo in esilio. No, no, no, ci sono gli altri profeti che dicono, ma stai scherzando, ma noi abbiamo... C'è la profezia, c'è la falsa profezia. Anche al tempo di Geremia hanno dovuto capire qual era la parola. Quella di Geremia che diceva, ma che, guardate che non è scontato avere il Tempio. O chi diceva, no, abbiamo il Tempio, Dio è con noi, non ci può succedere niente. Quindi stare nella storia con discernimento. Quindi smascherare la falsa profezia. Falsa profezia è quella di chi ci sta passando l'idea della normalità, del fatto di portare il PIL, cioè una percentuale di PIL messa sul riarmo, come quello che salverà l'Europa. Però poi a reti unificati si applaude al genio che dice questo, perché si chiama Draghi, ma sta dicendo questo. Vogliamo considerare Draghi un profeta? Cioè, non lo so. Perché dice quello, eh? Allora, per pochi che si sia, ma persino il Papa lo dice e viene messo in un angolo rispetto a questo, perché... Perché è ovvio che portare il PIL con gli armamenti a un tot fa bene alla metà delle aziende del Nord Italia, a parte delle aziende... diciamoci la verità. Sono i principi dell'economia. Ma è economia di guerra. Facciamo un'economia di guerra, così noi che eravamo ricchi continueremo ad essere ricchi, chi è povero lo sarà sempre di più, però non diciamo che sta roba va bene col Vangelo almeno. Cioè, ecco, non facciamo finta che questa sia civiltà. Io volevo solo dire questo. Se scusa, c'era ancora il post-teismo di cui... Poi non... c'era anche Liliana. Sì, scusa. Sul post-teismo non so dire, onestamente, se non che... io personalmente ho questa posizione, cioè quando sento qualcosa del genere riconosco che non mi ci ritrovo, no? Però penso anche che dobbiamo riconoscere la verità di quella ricerca. La verità di quella ricerca. Cioè, giustamente certe, le persone non si riconoscono più in quella fede portata avanti per secoli, detta in un certo modo. Quindi cerca altre strade, altri linguaggi, altre cose. Io penso che dobbiamo avere rispetto di chi è seriamente in ricerca. Poi è chiaro che mentre cerchi magari sbagli, cioè non è che è tutto, però questa è la mia impressione, ecco. Certamente una delle prime domande che dovremmo porci è che immagine abbiamo noi di Dio per poter entrare in relazione. Esatto. E credo che questa corrente stia proprio cercando di ragionare su questi aspetti. Sì, ma sì. Allora che immagine... Non possiamo più avere un'immagine antropomorfa, perché comunque... Certo, certo. Dobbiamo trovare un altro tipo di immagine che ci consenta quel tipo di relazione di cui tu parlavi all'inizio. Certo, certo. Sì, giusto. E poi c'è Marco. Lo stanno bruciato. Ma lui è stato felice. Ah, no. No, Enrico, no, pensavo che ti fossi associato. Ah, no, io sono. no, volevo dire questo, dunque, nella seconda sura del Corano, no? La sura della vacca, a un certo punto c'è un versetto che quando l'ho letto, quando l'ho incontrato, ho detto, ah, cavoli, questo è un versetto davvero interessante per me, perché dice che erano una cosa sola, un popolo solo, richiama un po' la città sola di cui parlavi tu prima, no? E all'interno di loro però c'erano dei conflitti. Per risolvere, per redimere questi conflitti, Dio ha dato la parola. E questo ha creato ancora più conflitto. E io l'ho trovata meravigliosa quando l'ho letto, come dire, le mille interpretazioni, no? Siccome oggi tu hai accettato una chiave di lettura invece molto bella, perché quella roba lì non serve per redimere i conflitti. Quello che serve, almeno a me piace moltissimo quello che hai detto tu, no? Per entrare in una relazione, e con ognuno entrerà in una relazione diversa. Non solo, con ognuno entrare in una relazione diversa anche nel tempo, perché oggi leggo una cosa, certo. Domani la leggo e mi dici delle cose completamente certo. diverse. Certo. E, adesso, però, ecco, ti dico cosa l'unica cosa che mi ha spaventato di quello che hai detto tu, così almeno la mettiamo in confronto. Lo studio dell'autore nel suo tempo, ma per una mia esperienza personale, no? Io sono uno di quegli adolescenti che ha iniziato a leggere la Bibbia su indicazione del suo parroco 500 volte, quindi i primi capitoli di Genesi li ho letti 500 volte e poi subito mi fermavo perché avevo questo compito di leggere la Bibbia, ma è un compito ingrato, non va bene. Invece in età adulta l'ho trovato un libro bellissimo, ma anche proprio da un punto di vista letterale, cioè proprio un libro da leggere, cioè lascerei quasi perdere certi tomi epici che leggiamo a scuola per leggere dei libri storici della Bibbia, perché sono meravigliosi, no? E io credo che si possono leggere anche senza conoscere l'autore e anche senza... cioè quello è un di più, no? Cioè leggo, oggi cosa faccio? Leggo un libro, un romanzo che mi piace tantissimo, mi affascina, e poi dopo vado, e quando leggo la vita dell'autore riesco anche a ricapire delle cose che ho incontrato che mi hanno smosso il cuore, perché le sto associando. Allora invece rischio secondo me di dire che ci va una formazione, cioè bisogna avere una sapienza, una saggezza per parlare con questo Dio, secondo me rischia di essere un pochino un ostacolo, perché se c'è una cosa bella nella mia esperienza personale, invece questo approccio molto libero e diretto, perché, come dicevi tu, un tesoro si trova sempre. Si trova tanto in un Dio umanizzato, no? Penso ai primi libri, i primi capitoli di Ezechiele, no? Quindi dove gli abbiamo buttato dentro tutto, tutte le cose brutte che ci appartengono, gli abbiamo messo tutta la gelosia, questa voglia di sangue pazzesca, no? Ma poi a un certo punto troviamo il tesoro, no? Arriva un capitolo che wow, no? E ecco, secondo me se c'è un problema di dire parola di Dio non è perché non sia ispirata, è perché siamo abituati a leggere pezzettini piccolissimi, e delle volte in quel pezzettino piccolissimo stiamo leggendo soltanto quello che ha scritto le mani dell'uomo, no? E allora forse il nostro problema è questo, leggiamo delle cose troppo piccole, certo, dovremmo provare a leggere le cose con un respiro un po' più. Infatti un criterio di interpretazione è il contesto. Noi siamo abituati a prendere le pericopi, si chiamano, no? Proprio tecnicamente, pericope vuol dire tagliare, cioè pezzi tagliati, perché abbiamo come dire, la relazione attraverso la parola nella liturgia, che giustamente taglia pezzo di questo. E invece per entrare nel testo ci vuole il contesto, prendilo tutto quel capitolo, prendi quello che c'è prima, quello che c'è dopo. Mi viene da dire questo rispetto alla dialettica tra l'approccio così, no? Spontaneo e libero a quello più appunto formato, tecnico addirittura, che non sono, io non le vedo tanto come cose in contrapposizione ma in successione, dove il primo passo non è il tecnicismo, non ci si avvicina alla parola con i ferri del mestiere. I ferri del mestiere ti viene voglia di farteli quando ti ha già affascinato. Ah, allora scusami, avevo mal interpretato. Non l'ho detto, non ho avuto modo di dirlo, quindi ben venga che è arrivata la parola. Cioè è come quando ti innamori di qualcuno, che magari è straniero però, no? E tu lo sei con la parola, però ti sei innamorato. Poi più ti avvicini, e questa è una fascinazione che avviene perché c'è stato l'incontro, non sei entrato, non sai bene. però sei innamorato, quella persona ti interessa e inizi a volerla conoscere, quindi la vuoi frequentare, poi se è russo studierai il russo, perché non puoi parlarti sempre in inglese, e l'altro studierà italiano, no? E allora è un po' questo, dice, prima ti innamori, e ti innamori così, non con i criteri dell'esegesi, poi siccome ti sei innamorato vuoi saperne il più possibile, e allora ti viene voglia di formarti, e formandoti vuoi sapere come faccio a entrare nel testo raccogliendo tutta la, tutta mai, ma il più possibile del tesoro che c'è, allora lì, ecco. Però mi veniva le ultime due domande. Devo solo continuare. Grazie. Un attimo questo discorso. Grazie. Nel senso che nel fatto che per esempio a messa vengano letti dei brani, quindi dei pezzetti, non potrebbe essere un aiuto per chi ascolta far precedere una interpretazione, nel senso che dà un quadro un pochino più ampio di quel pezzetto, no? Sì, ma perché nella liturgia la parola è scelta in modo tale anche che ci siano delle corrispondenze, quindi la prima lettura normalmente è tematicamente collegata al Vangelo, ok? Però dobbiamo capire questo, cioè il nostro rapporto personale con la scrittura non può passare solo attraverso la liturgia. Quello è un momento in cui la liturgia della parola è importantissima, ma porta al banchetto. Cioè quello che succede nell'Eucarestia passa dalla parola e arriva alla comunione, no? E va benissimo. Però la vita cristiana non è che si esaurisce in quello. Cioè il mio rapporto con la parola, perché diventi mio, cioè vuol dire che quando vivo qualcosa so dove orientarmi, dove sono, cioè quello non passa attraverso la lettura della messa, ma col fatto che mi prendo il Vangelo, una volta lo leggo tutto all'inizio alla fine, poi lo faccio con l'Esodo, poi lo faccio con Ezechiele, oppure vado avanti, ognuno c'ha il suo modo. Cioè, sono due cose che non, no, va bene, la liturgia per forza fa così, non può che fare così, non è che possa leggerci tutto l'Esodo in, però io lo posso fare per conto mio. Ecco, però pensavo alle persone che non fanno questa ricerca, ma sono soltanto a messa, per aiutarle, voglio dire, un pochettino. Ci vuole qualcuno che gli faccia innamorare, capito? Ecco. Tutto lì. Lasciamo le due domande finali. Sì, ma la mia non è tanto una domanda, è solo una riflessione, nel senso che mi pare giusto pensare all'interpretazione della parola, però se la parola deve diventare azione, secondo me è forse difficile trovare il modo di interpretare quella parola anche per la persona, anche per noi in concreto. Cioè voglio dire, giusto interpretare la Bibbia, le letture, pensando anche al contesto nel quale sono state scritte da diversi autori, in tempi diversi, esperienze diverse, eccetera. Ma se deve toccare me, cioè nel senso proprio renderla personale, ecco, certo. Allora secondo me può essere difficile trovare il modo, il sistema, le persone, il contesto nel quale capire come la parola di Dio si attualizza nella mia realtà. Bravissima, allora le vostre domande sono fantastiche perché cioè, permettono di tirar fuori tutte quelle cose che sarebbe proprio importante dire, che non sono riuscite, cioè, non le ho dette, ma sono importanti. Cioè il rapporto con la parola viene in questi due tempi qui, no? Cioè prima ci si chiede di fronte alla parola mai che cosa mi dice questa parola, che è il momento in cui poi io interagisco direttamente con la parola per capire nella mia vita dove mi porta, no? Per fare quella cosa lì di dire ok, l'autore voleva dire questo, però io oggi cosa sto vivendo, no? Il momento attualizzante che si fonda un po' sulla domanda che cosa mi dice, cosa dice a me, cosa dice a me oggi, però non bisogna mai partire di lì. Bisogna sempre, per la prima domanda non è mai cosa mi dice il testo, ma cosa dice il testo. Anche quando voglio arrivare e devo voler arrivare, perché altrimenti è solo un fatto intellettuale e culturale, no? Invece a me interessa un rapporto con la parola che poi mi aiuta ad orientarmi nella vita. Cioè, io, a me oggi sta capitando questo: come mi muovo, dove sono, come mi sta guardando il Signore, come mi sta parlando, no? Quello è. Allora però, prima di chiedermi questo, la mia interazione con la parola deve essere certa, no? Nel il più possibile, quindi devo capire che cosa dice il testo, per evitare di pensare che mi dica delle cose che proprio non si sogna minimamente di dire, perché sono contrarie all'intenzione dell'autore addirittura. Allora, il momento, come dire, di lettura attenta di un testo è previo, ma è la premessa di quel di quel portarlo poi nella mia vita e io entrarci dentro. Come fare? Ma non c'è tempo adesso di parlare. Però si può fare. La prossima volta si può fare. Io vi dico sempre, una delle cose che ho trovato funziona tantissimo, a me piace da morire, è quello un po' che dice fare Sant'Ignazio, che poi non era l'ultimo arrivato in fatto di parola, no? Dice entrare nel testo. Fare la composizio loci, lui diceva, no? Cioè te lo immagini. Usare la fantasia, l'immaginazione per vedere quella scena, comporla, no? Gesù che moltiplica i pani e i pesci, che ne so, no? Allora per la leggi bene, fai tutto il lavoro, guardi il testo, guardi prima, guardi dopo, tutto, no? Poi dopo ti immagini la scena, te la costruisci nella mente, no? Aggiungendo anche i particolari, dove vedi Gesù, dove vedi i discepoli, chi c'è, cosa? E poi ti ci metti dentro a quella scena lì, no? Prendi posto, ti metti comodo, dove vuoi stare? Lì seduto vicino, mentre stai mangiando? Cioè, immaginare ed entrare dentro e gustarla, perché è un'esperienza bellissima che ci rende contemporanei del Vangelo, contemporanei della parola. A quel punto ci si rende conto che ci sarà di quella parola un versetto, magari una parola soltanto, che fa succedere quello che successe ai discepoli di Emaus: scalda, brucia, resta, ti piace, hai letto tanto così, ma quello che cogli può essere una parola sola, oppure ti sei immaginato la scena, quello sguardo di Gesù, quel gesto. Allora ti fermi lì e dice Ignazio, te lo godi innanzitutto. Cioè non è cosa mi dice, ma intanto me lo godo, perché si prova gusto. Dentro a quel gusto ci sarà la parola, quello che il Signore ti sta dicendo oggi. E questo. Poi tra un mese la rileggi, magari un'altra cosa ancora. Non so se mi spiego. Grazie, a me, grazie. Ecco, io la consiglio. Io volevo chiederti qualcosa di... Sapete che è l'una meno 20? Sì, sì, un'indicazione sul fatto che la parola di Dio si attualizza e ci attiva, no? E noi ho apprezzato molto il fatto che tu ci abbia fatto capire come il creato si rivela oggi, in un momento difficile, quale sia la difficoltà del rapporto tra uomo e natura, no? Per varie ragioni, anche professionali, è la Bibbia che si rivela attraverso i telegiornali. Quest'estate l'ho un po' vissuta, perché con questa cavana di ghiacciaio in cui ho partecipato, e mi sono trovato a vedere la natura che cambiava e anche a parlarne di fronte a tutti, no? E a volte devo dire che ho un po' dubitato, no? Perché vedendo lo sfacelo che c'è intorno, sentendo te dire che il Signore non ritira mai la sua parola, il suo sguardo da noi, ho dubitato, però anche Gesù ha dubitato, no? Perché lui ha detto Dio mio, Dio, perché mai abbandonato? La mia domanda è relativa al fatto che tu dici che la bellezza del cammino della parola è che è un cammino lungo, come il cammino della natura, no? I tempi lunghi sono quelli che studiamo noi. Allora la domanda è: come possiamo riprendere in mano la parola della natura, saperla ascoltare? Perché magari per me è più facile, perché studio sta faccenda qua, però magari da te può arrivarci qualche indicazione su come recuperare la consapevolezza teologica della unicità tra uomo e natura, perché poi la verifichiamo oggi, no? Come se nell'Antico Testamento il Signore ci ha detto delle cose, poi non ascoltavamo, ci ha mandato Gesù Cristo e Gesù Cristo alla fine ci ha detto saranno fatti vostri, adesso siete voi che dovete prendere in mano questo. Ecco, ci sono degli elementi teologici per poter negare questa risposta che dobbiamo dare al cambiamento della natura, sì, che è poi comandata da noi adesso. Bellissimo. Il liber nature, dicevano i medievali, che lo sapevano. Allora, qualche settimana fa ho letto parte di un documento della... adesso non mi ricordo, hanno fatto un convegno, un congresso, giorni di studio, tutte le facoltà teologiche sudamericane, promosse dal CELAM, cioè l'organismo, no, delle chiese sudamericane, hanno, per leggere e interagire col documento di preparazione al sinodo della Chiesa. È stato i primi 10 giorni di agosto, no, sta cosa, molto interessante, una teologia che ragiona così, hanno partecipato presidi, docenti, studenti, chiunque volesse, no, a questo lavoro. Una dei punti di questo documento è il concetto di sinodalità per come viene visto e ampliato dallo sguardo degli indios, dove loro dicono che sinodalità, cioè, non è soltanto un trovarsi insieme come noi intendiamo, no? Ci parliamo, la Chiesa che sta imparando, eccetera, ma dentro a questo dialogo, questo essere seduti insieme, no? Intorno a un tavolo a parlare, ci sono i ruscelli, le foreste, gli animali, i cieli, tutto. E dice, veramente noi dobbiamo acquisire questo sguardo, e loro dicevano, per entrare anche dentro il Vangelo con una sapienza più grande, perché nel Vangelo ci sono uccelli, ci sono spighe di grano, ci sono gigli dei campi, ci sono fiori, cioè Gesù aveva questo sguardo sul mondo che lo circondava. Allora c'è modo, c'è una ragione teologica, altro che... Dobbiamo avere l'umiltà di saper ascoltare quelli che invece, quando sono venuti a Roma per fare il sinodo, no, sull'Amazzonia, vi ricordate come sono stati trattati, no? Che il Papa ha dovuto riprendere i cardinali dicendo: ma che cosa fate che siamo vestiti in modo, cioè, li ritenete ridicoli? Ma noi non siamo ridicoli con questa cosa che ci prende? Ma i cardinali, allora dobbiamo avere l'umiltà di ascoltare la terra, di ascoltare chi ha la capacità di ascoltare la terra, perché c'è una sinodalità, c'è una parola che passa attraverso questo, e il Vangelo lo conferma, e questo ci porterebbe ancora più in profondità nel Vangelo, dove queste cose ci sono. Non so se ho risposto.